preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non lo è, non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. Questa voce, chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai.